سفر طويل، رحلة وموسيقى لهذا العود. La mia vita è un lungo safar, un viaggio di una colonna sonora, il suono di una corda di lud, regalatomi da mio padre. E dal padre di suo padre fino all'infinito. Come il deserto che vedo fuori dalla finestra di casa. Non ha ostacoli per me questo deserto. E se Dio mi aiuterà, riuscirò ad attraversare il mare. Non ho timori, e questo mi basta. Buonasera e ben ritrovati, sono Livia Napolitano, sta per iniziare una nuova puntata di Nottetempo in Safar. Safar è il secondo mese del calendario islamico, il mese detto vuoto, il mese scelto dagli arabi preislamici per partire per le loro scorrerie, lasciando appunto vuote le loro case. Safar è la musica di Kayorda che state ascoltando ed è il nostro viaggio a chilometro zero, alla scoperta dei popoli, della cultura e della storia del Mediterraneo. In virtù del forte legame che ci unisce alla Sicilia, da questa settimana Nottetempo si lascia trascinare nella sciabica, la rete di solidarietà che ci porta sino a Lampedusa. Avevamo già letto qualche settimana fa la lettera di un immigrato attualissima, per poi dire alla fine della lettura che trattavasi di un immigrato italiano negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento. A memoria di quello che eravamo, per non dimenticare la nostra condizione di immigrati. Quest'isola periodicamente torna alla ribalta attraverso TV, giornali, quando ci sono i numeri, quando c'è la notizia. Ma a Lampedusa la tragedia è diventata quotidianità. Questa puntata di Nottetempo si apre con una lettera che abbiamo ricevuto. È la lettera di una professionista in campo medico che opera in ambito umanitario proprio sull'isola di Lampedusa. Condividiamo l'appello di Chiara. Dopodiché seguiranno le testimonianze raccolte dalla piattaforma digitale Sciabica affinché si realizzi un archivio della memoria. Gli eroi della pace. Sono qui a Lampedusa da una settimana che mi sembra eterna. Ogni sera avrei voluto scrivere, ma avevo troppa rabbia dentro, per tutte le responsabilità che stanno dietro a queste morti, per i deliri dei politici che speculano su queste morti e queste vite, per il lavaggio del cervello che ci stanno facendo, per cui l'immigrato è un criminale, o nella migliore delle ipotesi è un poveraccio che ci ruba il lavoro. Ma questi ragazzi, queste donne, questi bambini sono degli eroi, gli eroi della pace. Queste famiglie di siriani scappano per non dover alimentare una guerra che non vogliono. Questi ragazzini eritrei scappano da una dittatura spietata che li costringe ad una vita di militari a partire dall'adolescenza. Hanno conosciuto la guerra, La prigione in Egitto o in Libia, le torture, alcuni anche il naufragio, molti la morte. E quelli che sono qui, che sono sopravvissuti a tutto questo, hanno perso amici, figli, genitori. Quando si studiano un po' le loro guerre, non ci vuole molto a capire chi le ha volute, chi le alimenta, chi ci guadagna sopra. E loro, vittime coraggiose, non serbano alcun rancore. Soffrono i loro lutti con dignità, trovano non so come la forza di credere ad un futuro migliore. Sono loro i veri vincitori del Nobel per la pace. Ogni volta che un ennesimo pullman parte dal centro di Lampedusa, non ce la faccio proprio a chiamarlo centro di accoglienza. Li guardo dal finestrino, li saluto. Occhi che ho incrociato per pochi giorni, occhi pieni di speranza. Mi chiedo che ne sarà di loro. E purtroppo conosco già la prossima tappa del loro viaggio travagliato e so bene quanta salita ci sarà ancora per loro. Seguo con lo sguardo il pullman fino a che scompare. E di fronte a tutto questo, noi abbiamo paura che ci rubino il lavoro. A chi mi chiede cosa possiamo fare, io credo che la prima cosa sia non farci fare il lavaggio del cervello, non provare né paura né pietà per l'altro, ma riconoscere le infinite ricchezze della diversità, quelle che tendono a nasconderci, perché il conoscerle potrebbe essere controproducente in un'eventuale campagna elettorale. Credo sia smetterla di essere, più o meno consapevolmente, convinti di avere più diritti di altri solo per essere nati in questo angolino di mondo. E non c'è niente da fare, ne siamo convinti. Scrollarci di dosso questa convinzione richiede uno sforzo, ma è uno sforzo che è tempo di fare. Ed è proprio questo il momento di fare qualcosa. Come si sta proponendo la rete Shabika, raccogliendo testimonianze e pubblicandole sui social network. E a queste testimonianze noi daremo voce. Come avete ascoltato, nella sua lettera Chiara li definisce eroi, ma loro tali non si ritengono. Io sono Annalisa D'Ancona, ho 33 anni e non sono un'eroina. Loro li mettete dentro e a noi appuntate medaglie al petto. Potete anche riprendervele. My name is Annalisa D'Ancona, I'm 33 and I am not a hero. Them you throw into jail, but with us, you pins medals to our chest, you can take them back.